tempo di sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio, oggi parliamo, anzi parleremo per la verità, di scommesse sportive, partendo da un'inchiesta del Sole 24 Ore curata da Giuliano Balestreri, che è già qua con noi. Giuliano, buongiorno. Buongiorno Gigi. Pensate che solo a settembre, per darvi un'idea, si sono giocati 349 milioni di euro, mentre il giro d'affari del 2008 arriverà a toccare i 47 miliardi. Questo giusto per dare un'idea di cifre, di cui poi Giuliano ci fornirà ben altro in dettagli e in curiosità. È un fenomeno evidentemente di costume che poi in questo caso si applica alle scommesse sportive. Ma prima, anzi subito, l'eco della splendida serata fiorentina che la città ha dedicato e che la Fiorentina e Milan ha dedicato ieri a Borgonovo attraverso le parole più toccanti della serata, quelle di Roberto Baggio. Dobbiamo dire grazie comunque al suo coraggio, perché non ha nascosto questo grandissimo problema, l'ha reso pubblico e credo che questo vada sottolineato. Possono essere tante le cause, non si conoscono fondamentalmente quali siano, possono essere tante, però vuol dire ci sono anche tante persone comuni che non hanno magari fatto sport e che hanno questo determinato problema. Abbiamo fatto delle grandi cose, un anno abbiamo fatto 32 gol insieme, con partite incredibili, con risultati eclatanti, insomma, con grandissime squadre. Però poi purtroppo ci siamo divisi, ma comunque quello che lui ha fatto rimane. Questi sono per noi gli eroi moderni che meritano rispetto e onore. E tanta solidarietà da parte di tutti. In campo c'erano amici e compagni di ieri e di oggi sulle tribune, tanta gente accorsa a un richiamo a cui d'altra parte era impossibile restare sordi, anche la nazionale schierata al gran completo e ormai all'antivigilia della trasferta in Bulgaria. Contro Bulgaria fuori casa sabato e poi Montenegro a Lecce mercoledì prossimo, l'Italia si gioca credo la parte principale delle qualificazioni ai prossimi mondiali, anche se con una discreta dose di fortuna il cammino è iniziato abbastanza bene. Allora, i volti nuovi degli azzurri e qualche argomento particolare, cominciando dal sostituto di Buffon e quindi dall'uomo su cui saranno puntati la maggior parte dei riflettori, Ameglia. Domenica sono riuscito a batterlo, una grossa soddisfazione. Vincere a Torino contro una grande squadra, una sfida poi personale ma amichevole tra me e lui, quindi sono contento di questo. Mi dispiace se si è fatto male proprio domenica durante la partita, poi ecco, il mio ruolo è quello di farmi trovare pronto a questa situazione. Com'è avere davanti uno come lui sempre? Com'è? È bello perché ti alleni con un grande campione e osservando quello che fa lui puoi migliorare, però sai anche che le chance di giocare sono poche, quindi devi essere sempre pronto a qualsiasi piccolo spazio che ti lascia, anche se poi dispiace perché questi spazi dipendono da infortuni. Un altro frammento da Sky Sport è quello che Lippi ha dedicato a forse non un debuttante in squadra, o perlomeno non nella formazione iniziale, anche se ancora non è detto, ma certamente a un uomo nuovo di questa nazionale che non sta, per la verità, in questo via di stagione incantando, ma è uno dei pochi difensori italiani che potrebbero avere un futuro. Ed è Santa Croce. Sentiamo Lippi su di lui. Per me personalmente non ce l'ha, io non ci ho assolutamente pensato a questo tipo di problemi perché non fanno parte del mio modo di pensare. Se poi qualcuno, come mi ha suggerito qualcuno prima, può pensare che possa essere anche un messaggio di questo tipo, ben venga, ma io non ci pensavo assolutamente a quello. Beh, il tema evidentemente sottinteso era quello del razzismo e mi pare che le ultime parole di Lippi siano particolarmente felici in questo senso. Non l'ho scelto come messaggio, dice il commissario tecnico, come messaggio antirazzista, ma se qualcuno vuol vedere un messaggio di questo genere è il benvenuto, lo veda pure. Anche Ameglia, per tornare al portiere forzatamente titolare, si è espresso in materia, ascoltiamolo. Non deve essere Santa Croce il messaggio antirazzista, cioè, in passato ci sono stati tanti altri casi di questo genere. Bisogna continuare però su questa scia, dove se c'è la possibilità di trasmettere un messaggio di questo genere, continuare a farlo il più possibile. Il problema è che poi vediamo che giorno dopo giorno nel sociale succedono cose brutte. Per quello che mi riguarda, se mi accorgo che i miei tifosi iniziano a insultare tra virgolette un giocatore solo perché ha un colore di pelle differente, posso anche uscire dal campo perché questa è una sconfitta, allora a questo punto lasciamo stare. Beh, un giorno o l'altro poi dovranno seguire gli atti alle parole, perché queste sono sempre, con tutto il rispetto e la condivisione per quello che Amelia dice, ma insomma in genere sono cose che si dicono, fino adesso sono cose che non si sono viste. Il giorno che le vedessimo, indubbiamente un passo avanti concreto sarebbe stato fatto. Oggi, 9 ottobre, è anche la giornata mondiale della vista. Radio 24 ha dedicato e dedicherà una serie di programmi e di appuntamenti alla giornata mondiale della vista e di conseguenza ai non vedenti. E, insomma, si è cominciato stamattina ovviamente l'intero programma di Essere e Benessere, Nicoletta Carbone, altri seguiranno nel corso della giornata. Noi più tardi ascolteremo Maria Poiani, che è un'atleta non vedente, olimpionica di nuoto alle recenti Paralimpiadi di Pechino. La sentiremo nella seconda parte del nostro appuntamento, mentre sin da ora invito Rosa, che è la nostra vestale al centralino, come sapete, a dar la precedenza oggi agli interventi in diretta dei non vedenti, che so essere molto ben rappresentati all'interno della pattuglia degli ascoltatori di Tempo di Sport e insomma, che ci fa piacere oggi, in una giornata così particolare, abbiano una, se lo desiderano, una corsia preferenziale. Vi dicevo dell'argomento portante della puntata. Allora, ridò il benvenuto a Giuliano Balestreri. Leggo il titolo di questa inchiesta, ripeto, pubblicata da Sole 24 Ore, che è Sport, scommesse in salita del 27%. Allora, primissima domanda. Si tende a pensare, e si legge anche in questi giorni, che in momenti come questi di cataclismi economici e di suggestioni di 29, forse moltiplicato per un numero nel senso che altro che il 29, e si dice, si legge, l'oro è il bene rifugio piuttosto che qui il bene rifugio, sì, ma le scommesse sportive, appunto. Come mai? Perché? Come si spiega? Che senso dai? Beh, diciamo che innanzitutto in un momento di crisi come questo gli italiani cercano dei va a fine mese e hanno trovato una soluzione apparentemente vincente nelle scommesse, le scommesse sportive. E diciamo che siamo anche bravi quando scommettiamo, perché i dati di settembre dicono che ogni 100 euro scommessi ne mettiamo in tasca 81, che è un risultato eccezionale. Non vorrei che diventasse un promo, questo, no, sì. Mi sento sempre un po' di... No, ma è giusto, cioè, questi no, sono però, numeri, ci mancherebbe altro. Però sento sempre un pochino la responsabilità, no? No, certo. Soprattutto in una radio economica, e così come Sebastiano Barisoni si affanna sempre in momenti come questi a cercare di evitare il panico, io non vorrei andare nel senso opposto, cioè ragazzi scommettete che tanto siete bravi. La panacea di tutti i mali, no, non è assolutamente questa, però è curioso. E uno dei punti di forza, o comunque quantomeno che attrae i giocatori, è quello dell'immediatezza del risultato. Infatti certo, le scommesse che vanno di più sono quelle sulle partite secche. Serie A, Serie B, Lega Pro 1 e 2 e Champions League, perché si gioca con frequenza, perché ci vogliono 90 minuti per sapere se si è vinto o meno, mentre non vanno assolutamente le scommesse che riguardano gli sport settimanali, anzi bisettimanali, come la Moto Mondiale piuttosto che la Formula 1, perché non c'è la frequenza richiesta. Sì, qua è proprio una cosa più da consumo pronto, assolutamente, immediato, assolutamente, da esito da vedere. Io so che tu hai un mare di numeri, oltre a quelli che hai pubblicato, perché è un settore che segui professionalmente. Sì. Ma certo, leggere che tra le province italiane Pavia è quella in cui si gioca di più, con un impatto del 5,55% sul valore del PIL 2007, è addirittura impressionante, secondo me, anche perché è quella dove il gioco assume il maggior peso, seguito da Caserta. Quindi esatto, non c'è una differenziazione geografica, anzi proprio agli opposti praticamente sono le zone dove si gioca di più. È strano, così come è strano anche il dato riferito ai consumi alimentari, cioè noi in Italia giochiamo il 10% di quello che spendiamo per alimentarci in scommesse. Il 10% di quello che la spesa media per una famiglia. Ma per famiglia sì, sì, chiaro, sì, no. Vabbè, no, però per famiglia, comunque la spesa media è 1700 euro per alimentarsi, la spesa media per famiglia per giocare è circa 600 euro, quindi poco meno del 10%. È un 660 dato... sarà, no, un momento, dunque 1700 euro. No, pardon, scusa. 170 sarà, se il 10%. Sì, assolutamente. Sì. Sì, sì. Però ecco, no, esatto, cioè, fatto proprio il calcolo rispetto a quanto si spende per mangiare. Ma questo è su base italiana? Su base italiana. Cioè, una famiglia media italiana spende... ho sbagliato io, scusa, sono 5.600 euro in alimenti, sì, e 554 euro all'anno per giocare in scommessa. Beh, ma comunque rimane no, un dato, sì, comunque il 10% di quanto si spende mediamente per alimenti, famiglia, esatto. Ma io questo lo trovo spaventoso, quindi anziché un promo come poteva sembrare, io trovo un segnale d'allarme. Assolutamente, però questo proprio dà anche la dimensione della crisi, nel senso la gente non sa più dove rifugiarsi e trova una panacea nel gioco, per quanto questo possa essere pericoloso poi di fatto, perché certo che lo è, anche perché i provider quando danno le loro quote le danno a favore loro, non certo del non giocatore. Non si è mai visto uno che regala, assolutamente, assolutamente. Dal punto di vista delle quote. Senti, allora dicevamo per esempio che Pavia è la regione italiana in cui si scommette di più. Sto leggendo numeri, sinceramente. Ma anche la crescita anno su anno, proprio, sì, della scommessa sportiva. Settembre dell'anno scorso abbiamo giocato 270 milioni di euro. Settembre di quest'anno ne abbiamo giocati 350, una crescita del 27%. Cioè 80 milioni di euro in più, crescita, sì, del 27% in un anno. In un anno, mese di settembre. Esattamente. Mese di settembre, scommesse sportive stiamo scommesse parlando. Sportive, tu, sì, ci hai, sì, detto che il calcio è il 93%. Quindi significa che da un inizio di campionato all'altro abbiamo aumentato gli 80 milioni. E quest'anno il giro delle scommesse sportive chiuderà intorno a 3 miliardi e mezzo, mentre l'anno scorso eravamo sotto i 3 miliardi. Cioè, l'incremento sono numeri da paura. E la cosa, sai cosa? No, non voglio interromperti. Sto solo segnalando a Flavio Suardi in regia di Là dal Vetro che se c'è qualche ascoltatore che vuole intervenire su questo argomento, ma magari avendone appunto precedenze non vedenti, insisto, ma avendone un'infarinatura, io trovo che siano numeri stratosfericamente impressionanti. Ma è la cosa che mi ha colpito anche nella ricerca per il pezzo, è che gli italiani poi è vero che amano il calcio, ma scommettono su tutto. Durante le Olimpiadi abbiamo raccolto 3.000 euro di puntate, pochi, ma sul taekwondo, cioè uno sport sconosciuto praticamente, e uguale fu nel 2006 a Torino per il curling. Ah, sì, cioè il curling ha raccolta pure le scommesse. Sì, sì, quindi c'è una cosa. Quei pochi restavano svegli scommettevano pure. Sul curling, quindi voglio dire, siamo un paese proprio di poeti, santi, navigatori, ma anche scommettitori. Ma anche scommettitori assoluti. Ha un riscontro, come dire, sì, certo che è un riscontro europeo, perché è in Inghilterra che è nato tutto ciò, sì, no? Cioè il fenomeno dei bookmaker noi l'abbiamo importato. Noi siamo più regolamentati. Sì. Cioè l'AMS, che è il monopolio di Stato, ha dato un limite dalle puntate che non possono superare 200 euro e la vincita massima non può superare 10.000 euro. Quindi questo, sì, è già un calmiere. E poi soprattutto noi abbiamo i provider lo definiscono un mercato piatto, però forse è anche un mercato tutelato, perché non si può scommettere su tutto. Ci sono alcuni settori nei quali è vietato. Sì, alcuni argomenti tabù, per fortuna forse. Beh, questa era una prima parte, poi ce ne seguirà una seconda dopo il primo intervallo. Ripeto, sempre di numeri e di curiosità, ma mi sembra che già quelli presentati da te sino ad ora un minimo di interesse, anzi un massimo di interesse per il mio, dovrebbero averlo suscitato. Mi raccontava Giuliano Balestrelli nel corso di questo breve intervallo, perché non dovendo guidare confesso che non abbiamo ascoltato gli aggiornamenti sul traffico, mi diceva però che nel computo delle scommesse sportive, per la verità, è compreso anche il poker, che ormai poker si online. Gioca online regolarmente. E questo, a parere tuo, è una voce che incide robustamente o Beh, è dunque, all'inizio? Siamo agli inizi, però sì, calcoliamo che si può giocare 24 ore su 24 solo da 10 giorni circa, e sono stati raccolti già 20 milioni di euro, che è un dato assolutamente rilevante questo. La passione, la mania per il poker c'è. È in crescita, anche questo è stato preoccupante forse. Beh, insomma, molto rassicurante, no, perché in realtà non è reato, anzi tutto questo è legalizzato. Assolutamente, però il fatto che si possa giocare 24 ore su 24 con programmi che ti permettono di impostare il pilota automatico praticamente nella, certo, tua giocata, nella tua puntata. Sì, insomma, diciamo che è un margine di rischio abbastanza elevato e insito. D'altra parte, mi fanno notare alcuni ascoltatori, è sparito il totocalcio in Italia, è praticamente sparito, nel senso che c'è ancora, ma non si gioca non è che gli italiani, anche nel primissimo dopoguerra, quando economicamente non eravamo conciati certamente molto meglio di oggi, anzi, gli italiani si giocavano un sacco di quattrini in schedine anche allora. Perché? Perché era il modo, per l'appunto, di tentare la sorte. Quindi oggi in fondo non c'è niente di nuovo da questo punto di vista del costume. No, assolutamente. Direi che ci rifugiamo un pochino in questi palliativi. Ma come oggi c'era la coda per giocare il Superenalotto. C'è grande attesa. Ecco, forse il Superenalotto è quello che più ha sostituito il totocalcio nel senso popolare. Il sogno di vincere. E c'era la coda perché adesso siamo a 80 milioni di jackpot. Stasera verrà stata la combinazione magica. Con un 6 e uno. Si sistema. Sì, a lungo, diciamo. Dovrebbe cavarsela per un po'. La schedina, a differenza delle scommesse, richiedeva forse un minor tasso di competenza, nel senso che c'era chi la schedina la giocava in maniera scientifica, studiandosi le squadre, il valore di quel momento, la classifica, tanti parametri, e c'era chi invece metteva dei segni a caso. Questo non lo puoi fare, no? Non avviene più, è una cosa anzi da specializzati, insomma. Infatti si gioca, uno dei vantaggi insomma che ha spinto le scommesse a favore del totocalcio è proprio quello di poter scegliere solo due o tre partite, combinazioni. Chiaramente è dedicato proprio agli esperti, anche perché le poste poi sono più alte, più è difficile il grado della partita, no? Ecco, hai detto poste, e per poste intendevi evidentemente la giocata, però. L'investimento deciso. Ma a proposito di poste, credo di averne sentita una da te che mi ha fatto veramente trasecolare. Prova a ridirla agli ascoltatori. Beh, diciamo che è più facile scommettere su partita di calcio che non inviare una raccomandata da un ufficio postale, perché ci sono più corner che accettano scommesse, sono 16.000, che non uffici postali in tutta Italia. Effetto del decreto Bersani sulle liberalizzazioni, effetto della mania del gioco, ma hanno aperto negli ultimi anni 14.000 punti di scommessa. Il fatto che sia più facile andare a scommettere che non a fare una raccomandata, e cioè che ci siano più corner, tu hai detto, sì, cioè punti di ricevimento, cioè scommesse, che non uffici postali. È una cosa, 2000 già c'erano. Non dico che ci avvicina la fine del mondo, ma certo, qualche riflessione ce la suggerisce. Senti Giuliano, ti interrompo un istante perché abbiamo in linea Alessandro da Milano, che mi segnala Flavio, un addetto ai lavori nel gioco scommesse. Alessandro, buongiorno. Sì, buongiorno. Dica. Allora, dunque, io sì, effettivamente provengo dal settore, nel senso che ho fatto trading per una decina d'anni, quindi mi sono occupato di varie società di scommesse sportive, quindi se è possibile volevo dare il mio contributo su questo tema per quanto riguarda il numero di punti vendita. Sì, è vero che sono aumentati a dismisura, però è anche vero che a mio avviso il prodotto scommesse sportive in questo momento è quello più richiesto. Se paragoniamo il numero di punti di gioco del Superenalotto, del Lotto, con le scommesse sportive, c'è un sostanziale equilibrio, la cosa mi sembra abbastanza normale. Cioè, non lo trovo una situazione così assurda il fatto che si possa puntare su una partita di calcio in 10.000 punti vendita, ecco, sinceramente. No, assurdo no. A noi quello che ci colpiva era che nello stesso, in un numero inferiore di punti vendita, si possa andare a fare una raccomandata o a pagare una multa o una bolletta. Che era un po' diverso, cioè sono liberalizzate queste cose, non c'è mica nulla che non vada. Anzi, ne approfitto per rispondere a un messaggio firmato Antonello da Bergamo, che dice: penso che lei, Garanzini, non sia una persona coerente nel pubblicizzare il gioco illegale. Non ci siamo capiti, Antonello, il gioco è perfettamente legale, non c'è nulla che non vada, si gioca alla luce del sole, tutto questo è autorizzato, ammesso e certificato. Assolutamente. Il monopolizzato dice su cosa puoi scommettere e su cosa non puoi scommettere, quindi la puntata massima è 200 euro e la vincita massima sono 10.000 euro, quindi anche le quote che vengono assegnate sono assolutamente certificate, non c'è niente di illegale. Antonello, se fosse stato qualcosa di illegale, mi creda che non staremmo parlando di questo, tantomeno in una radio che è emanazione del Sole 24 Ore e con un collega del Sole 24 Ore, cioè, fin qua i fondamentali li conosciamo. Il discorso del che si parla, prima l'ascoltatore diceva, ma i punti vendita dove si gioca il Lotto e quelli delle scommesse sono più o meno equivalenti. È vero, ma il Lotto esiste da 500-600 anni, quindi nel senso Sono punti che sono... Quindi vuol dire che questo è un fenomeno in espansione rapidissima. Assolutamente, che, assolutamente. Cioè, certo. Si gioca l'otto, si giocava il totocalcio prima e, certo, e così via. Sì, sì, ma poi l'otto in particolare è radicato nel costume, sai più. Questo si è radicato... Nel costume, ma negli ultimi tre anni. Costume o tra i vizi, non saprei bene dove catalogarlo, sì, ma insomma non ha questa sottile grande importanza. Allora, dalla provincia di Pavia, che vi dicevo prima è quella... No, vi dicevo prima, leggevo dal servizio di Giuliano Balestreri, che è quella in cui... c'è l'impatto maggiore sul valore del PIL, nel senso che si gioca il 5,55% del valore del PIL 2007 nella provincia di Pavia. Dicevo, dalla provincia di Pavia chiama Francesco, buongiorno. E precisamente da Stradella, buongiorno. Da Stradella, buongiorno. Sì, buongiorno. E io sono doppiamente preso in causa perché sono anche non vedente, quindi sono il massimo della... voglio dire, la crème de la crème, come si dice. Francesco, un benvenuto speciale allora. Grazie mille. Il mio, diciamo, messaggio principale era per appunto complimentarmi da non vedente a come riusciamo a vedere noi le partite dopo che comunque la radio ce le racconta per via della RAI, no? Perché la RAI racconta e a tempo di sport ragiona, e questo è straordinariamente bello. Francesco, guardi che voi, questa gliela registro e la potremmo anche usare come slogan, visto che lei è un ascoltatore. No, ma io le chiederemo una liberatoria un giorno o l'altro per usarla come slogan, perché meglio di questa io sinceramente credo sia il miglior complimento ricevuto in questi 9 anni. Io conosco tanti colleghi della Radio RAI, quindi voglio dire, ancora di più potrebbe essere un complimento, perché conosco anche voi, ma con te Garanzino ho parlato forse 5-6 anni fa, 4-5 sì, anni fa. Io sinceramente non ho una memoria però di bomba come la sua, e quindi però adesso che sento la voce probabilmente qualcosina mi comincia ad affiorare. Francesco, grazie di essere intervenuto, grazie di questo strepitoso complimento, comunque della sua testimonianza e partecipazione. Da Milano ha chiamato Marco, buongiorno. Sì, buongiorno Garanzini. Dica. Per il discorso scommesse è molto interessante l'analisi e i numeri soprattutto. Devo dire che io, diciamo, le gioco così per passione, quindi qualche puntatina il sabato magari sul calcio inglese o sul calcio italiano, che perché magari è molto più facile puntare sulle squadre forti, quindi punti 2-3 partite insieme sulle squadre, diciamo, sulle big dei vari campionati, ecco. Quest'anno per esempio sta deludendo il Bayern Monaco, però tendenzialmente le squadre forti hanno un numero di vittorie quasi sempre molto simile alla fine dei campionati, quindi c'è gente che con un metodo proprio scientifico e da con la pura matematica riesce magari a tirarsi fuori, non dico un secondo stipendio, però insomma a sbancare qualche agenzia, costante, ecco, questa è la testimonianza. Invece i poveri, diciamo, la gente, i giocatori del sabato e della domenica come me, magari punta un pochino di più perdendo molto di più, ecco. Invece c'è chi proprio con le scommesse usa un metodo scientifico confrontando anche... Va quasi su sicuro, insomma, esatto. Però... chiaramente i margini sono pochi perché le quote sono basse, questo è risulta, Giuliano, sì, tutto sì, ciò? Sì, sì, sì, assolutamente. Cioè, chi ma risulta anche, mi raccontavi, che non c'è questo grande movimento poi sul calcio estero? No, anzi, il 60% delle puntate le facciamo sulla A, la B e la Lega Pro 1 e 2 anche. Lega Pro vuol dire la vecchia C1 e C2, esatto, C1 e C2. E c'è un movimento forte di scommesse anche su quel settore? Sì, assolutamente. Sono molti tifosi, magari della Pro Sesto piuttosto che della Pro Patria, che giocano sulla squadra. È un argomento che ha fatto presa. Lo valuto dal numero impressionante di messaggi e di interventi che ci sono. D'altra parte, ormai siamo a metà trasmissione, credo che questo argomento per oggi lo dobbiamo abbandonare. Salutare Giuliano, ma ridandogli appuntamento a una prossima occasione. Volentieri. Perché dalla curiosità che riscontro, per l'appunto, vuol dire che la prossima volta magari andremo un pochino più nel dettaglio. Oggi abbiamo inquadrato l'argomento. Grazie, a presto. Grazie mille, grazie a te, buongiorno. È rimasto per qualche tempo un ascoltatore in attesa. Luigi da Pisa, buongiorno. Sì, buongiorno. Dica, Luigi. Senta, allora, io sono, a parte, abbiamo già parlato diverse volte, io sono un non vedente e nella mia vita ho avuto una grande fortuna di perdere la vista nell'83, riacquistarla nell'84. Da tifoso del Napoli ho vissuto i miei 7 anni di Maradona, è stata una grande felicità. Poi purtroppo l'ho ripersa nel 2002 la vista. E comunque sono d'accordo con quel radioascoltatore che ha chiamato prima, che la RAI ci fa vivere le partite e poi i nostri sentimenti di gira si cambiano su Radio 24 per ascoltare le nostre trasmissioni preferite. E poi vorrei dire un'altra cosa, finalmente dopo qualche anno sono riuscito a fare un corso da computer e riesco a rifare le mie giocate, le mie scommesse come prima. Ah, ma quindi lei oggi è funzionale a questa giornata proprio al 100%, direi. Sì, sì, sì. No? E poi se mi dà la possibilità, come no? Per quello che avevo chiamato, era che io quando ero tifoso, il tifoso del Napoli, non è facile girare l'Europa, a volte bisognava saltare l'autogrid per non mescolarsi, diciamo, a persone non gradite. Vorrei dire questo, secondo me negli stati italiani andrebbe fatto una cosa, alcuni settori li nomerei settori del tifoso vero, cioè tifosi, per faccio un esempio, napoletani, milanisti, dove queste due tifoserie possono convivere insieme, i tifosi veri, così piano piano escludendo quella massa di violenti che poi è la minima parte negli stati, che però fanno più rumore, quindi seminare questa cosa sarebbe importante secondo me. Luigi, il suo è un messaggio che, insomma, è un messaggio che è già arrivato, un messaggio che ha una valenza molto molto particolare, e le dirò che la sua è anche, tra l'altro, sempre con i consueti problemi di fattibilità, ma è anche un'eccellente idea, perché è vero, si gira l'Europa e si gira il mondo e si trovano spettatori di opposta fede calcistica in quel momento, no? che convivono tranquillamente, pacificamente gli uni accanto agli altri, e chissà perché da noi devono essere transennati, ghettizzati o divisi, chissà perché, lo sappiamo benissimo, ma insomma questo potrebbe essere un modo di andare oltre. Luigi, la ringrazio davvero, credo sia il momento allora di mandare in onda questa intervista che Flavio Suardi ha realizzato con Maria Poiani. Maria Poiani, medaglia d'oro alle recenti Paralimpiadi di Pechino. Io sono andata a Pechino a fare 100 stile e 50 stile. La prima gara che ho fatto sono stati 100 stile e sono arrivata quinta, anche in finale. Non è che mi sono demoralizzata, quello lì no, però sono rimasta un po' così. Dopo due giorni avevo i 50 stile e in qualifica sono riuscita a essere prima. Quindi poi in finale ero molto agitata perché avevo questa tensione, non tanto di prendere l'oro, perché non si sa mai, in un 50 si sbaglia in un attimo, però di poter arrivare almeno terza. Quindi sono partita che ero un po' così, però mi è andata bene e ho vinto quest'oro. Questo risultato ti ripaga evidentemente di tutti i sacrifici che hai dovuto fare per arrivarci, insomma. Vuoi raccontarci un po' com'è la tua giornata, tipo dal punto di vista chiaramente sportivo? Io da settembre dell'anno scorso a giugno mi allenavo 4 volte a settimana, alla sera, dalle 8:30 alle 10 di sera. Poi da giugno a settembre ho deciso di non lavorare, sono messa in aspettativa e mi allenavo tutti i giorni e per 3 volte a settimana anche 2 volte al giorno. Sicuramente è stata una mia scelta perché sennò non riuscivo a nuotare, lavorare, cioè, poi per prepararsi bene tutti dicono che bisogna allenarsi più volte in un giorno, allora ho fatto questa decisione che mi è andata bene. Quanto è difficile riuscire a primeggiare nello sport dal punto di vista di un atleta paralimpica? Insomma, per chi non lo sapesse, tu hai gareggiato nella categoria ciechi totali, che se non erro si chiama categoria S11. Insomma, quali sono davvero le barriere da superare per chi si accosta allo sport di alto livello? La barriera che io ho incontrato è stato trovare lo spazio d'acqua. Cioè, non è così semplice trovare dove andare in piscina, avere una corsia, trovare anche la persona che ti segue. Io in questo caso sono stata fortunata in questi anni perché sono in una società dove c'è gente, però nel passato ho sempre avuto difficoltà a trovare una squadra dove poter essere inserita, dove poter fare le gare, quindi cioè, molta gente dice no, tu sei non vedente, quindi non posso farti nuotare insieme ai vedenti, perché c'è sempre questa idea che il non vedente va storto, no? Cioè sì, tu vai storto, cioè, non è che tu continui ad andare storto, tu hai magari quell'attimo che vai storto, però poi una volta essersi allenati, aver continuato a seguire la corsia, tu non vedente sei in grado di notare anche con gente che vede. Oggi è la giornata mondiale della vista, tu ci hai raccontato di quelle che sono state le tue difficoltà a trovare spazi per fare sport anche ad alto livello. Che messaggio vorresti mandare a chi magari è giovane nella tua stessa condizione di non vedente e che trova le tue stesse difficoltà per fare sport? Dal mio oro posso dire che sicuramente per i genitori non sarà una passeggiata, soprattutto trovare appunto spazi acqua, però anche senza arrivare alle Olimpiadi è giusto che chiunque può di fare sport. Poi dopo sarà poi nuotando o correndo, facendo altri mille sport che si capirà se si può andare a una Paralimpiade, se si andrà ai mondiali, però questo è tutta una cosa dopo. Prima bisogna fare sport per divertirsi, poi dopo quello che sarà, sarà. Converrete con me che la voce, la freschezza di questa ragazza sono semplicemente entusiasmanti. Gianni da Giussano mi scrive, vorrei consigliare a lei, a chi ne ha voglia, la lettura di un piccolo libro dal titolo Remare senza remi, ed è il racconto della dignità e della forza di una giornalista svedese malata di SLA. Cercherò questo Remare senza remi e chissà che non lo cerchi anche qualcun altro. Giuseppe ha chiamato da Perugia, buongiorno. Sì, buongiorno dottor Garanzini, grazie dell'opportunità, complimenti. Mi rilasciavo al discorso delle scommesse sportive, che secondo me, se letto insieme all'ammontare giochi degli italiani, quindi sia i giochi tradizionali, sia tutto il mondo dei giochi online, che non riguarda solo le scommesse, ma anche il poker o altre cose, il fenomeno diventa da preoccupante, secondo me, a drammatico, nel senso che l'accessibilità a questo tipo di gioco, che poi è un gioco a tutti gli effetti d'azzardo, è diventata negli ultimi anni assoluta. Quindi qui non parliamo solo di sportelli, di punti vendita, parliamo del fatto che ognuno che ha una connessione internet e una carta di credito può giocarsi veramente delle cifre importanti con una facilità e superficialità preoccupante, e questo secondo me è il dato più drammatico, va letto sì nel complesso di tutti i giochi ci sono adesso online. Completamente d'accordo con lei, questo cioè non il fatto che esista il gioco, ma il fatto che ci sia questo tipo di accessibilità e questo tipo di gradimento è un vero e proprio preallarme sociale, se non addirittura allarme levandoci direttamente il pre. Tocca ad Angelo da Milano, buongiorno. Sì, buongiorno. Dica. Io volevo ringraziarvi per tutte le notizie che date per noi non vedenti, chiaramente, che dobbiamo basarci solamente su quello che dicono le radio private e in parte la RAI, che ci fa seguire tutto il calcio minuto per minuto, ma soprattutto con le radio che trasmettono in diretta la vostra squadra, insomma la squadra del cuore, diciamo, no? Sì. Mentre voi siete più completi, nel senso che date tante notizie di ogni genere. Ecco, io volevo chiedere però se era possibile, se potevate dare qualche notizia in più sul settore giovanile delle varie squadre, soprattutto le nostre di Milano, chiaramente, no? Sempre se fosse possibile. Non è semplicissimo. Manca sempre, non è semplicissimo, Angelo, perché insomma, io credo che i settori giovanili facciano giustamente parte debbano far giustamente parte della cronaca locale. E insomma, un emittente nazionale ovviamente fa un pochino di fatica ad addentrarsi nella cronaca locale, perché poi per parità di trattamento non soltanto i settori, cioè non soltanto l'attività giovanile lombarda, ma anche quella marchigiana, quella insomma, capisce che diventa più difficile, insomma, però ogni tanto magari uno spunto, un modo di soffermarsi o un accenno di passata potrà sempre capitare. Grazie del suo intervento. Dopo aver sentito questa intervista, scrive Luca da Parma, mi domanda come facciamo noi fortunati a discutere su un rigore dato o non dato. Perché non mandi in onda una volta al giorno la trasmissione di oggi, che ci serve a vergognarci tutti quanti insieme, a cominciare da me? Bravo Luca. Ma io non credo ci sia bisogno di ripassi, basta una volta ogni tanto per questi ripassi, no? Addirittura elementari. Allora, non perdiamo di vista la scaletta e quindi il ripasso di storia curato da Nicola Filippone. Sembra ieri. 9 ottobre 1977. Gilles Villeneuve fa il suo esordio alla guida della Ferrari. In occasione del Gran Premio del Canada, prende il posto di Niki Lauda, in rotta con la casa di Maranello. La gara viene vinta dal sudafricano Jody Scheckter, mentre il pilota canadese chiude solo al 12° posto, ma dimostra subito classe e personalità, doti che gli frutteranno la conferma per la stagione successiva. Fino al 1982, anno della sua tragica scomparsa, Villeneuve correrà con la Ferrari 66 Gran Premi, ottenendo 6 vittorie, 13 podi complessivi e 21 piazzamenti a punti. È stato un mio errore non cedere prima a Ronaldinho, lo ha detto Laporta, presidente del Barcellona. Trattenerlo a Barcellona è stato sbagliato e ci ha rovinato 2 stagioni. Beh, non è male come ammissione di responsabilità e come resipiscenza. Sarà contento Ronaldinho e sarà contento i milanisti, magari indirettamente. Roberto da Torino, buongiorno. Buongiorno a lei. Dica. Sì. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti. Volevo raccontare la mia esperienza nel campo delle scommesse. Sì. Mi sono avvicinato, diciamo, a questo mondo a fine 2005, inizio 2006, quando la SNAI ha quotato le scommesse delle borse delle azioni, delle borse italiane e delle borse estere. Per me è stato, diciamo, i due anni più fortunati della mia vita, perché ho messo da parte un po' di soldini, anche perché a differenza dello scommettitore io avevo la mentalità di chi investe in borsa e non chi gioca in borsa. A volte c'erano delle scommesse per dire a 1,15, quindi un 15% che uno scommettitore difficilmente va a puntare, mentre per me quel 15% era un 15% regalato. Certo, scommettevo anche grosse somme, tipo 500, 1000 euro alla volta, però per me quelli erano proprio dei soldi regalati. Tant'è vero che però comunque la SNAI dopo un anno e mezzo ha tolto questo tipo di scommessa. Capito. Beh, anche questa è un'esperienza legittima, per carità. Non vorrei che ricominciasse qualcuno a scrivere o a pensare che stiamo facendo pubblicità, chissà che cosa di illegale. Tutto questo è perfettamente legale, sia ben chiaro, e all'estero esiste da molti più anni che da noi. Insomma, è una vecchia storia che i bookmaker inglesi insomma, già 100 anni fa accettavano scommesse sul colore del cappellino con cui sarebbe uscita la regina madre piuttosto che la regina nonna o non so chi. Tocca a Mauro dalla provincia di Vercelli, buongiorno. Sì, buonasera, dottor Garanzini, saluto lei e tutti gli ascoltatori. Grazie. Io sono responsabile del settore Polizia dei Giochi della Questura di Vercelli. Polizia dei Giochi? Sì, squadra mobile Polizia dei Giochi. Sì. Il Dipartimento della Polizia di Stato già da qualche anno ha fatto dei corsi di specializzazione per contrastare il fenomeno del gioco clandestino. Sì. Formando del personale in tutte le questure, perciò in tutte le questure d'Italia c'è una sezione dedicata ai giochi e alle scommesse. Purtroppo il fenomeno è molto vasto. È vasto il fenomeno del gioco clandestino, è vasto il fenomeno del gioco taroccato, è vasto il fenomeno del gioco in internet che per noi è quasi impossibile controllare. Ah beh, certo. Perché i siti illegali dove si fanno scommesse cambiano server continuamente, perciò anche per la polizia postale è sempre difficile arrivare a colpire gli autori dei reati. Certo è che io le posso garantire che ci sono persone che si stanno rovinando con questa facilità di gioco. Capisco anche che lo Stato ci guadagna una barca di soldi. Certo, quindi lei ci sta dicendo gente che sta rovinando, ma non soltanto sul clandestino. Cioè sul regolare. Sul gioco, proprio sul concetto di gioco. Sì, sul concetto di gioco, perché c'è troppa facilità. Cioè oggi vai in qualunque tabaccheria, in qualunque posto e puoi giocare. E Mauro, lei dice oggi, e io sono d'accordo perché abbiamo sentito prima di quanto si siano moltiplicati i punti vendita, diciamo. Però è anche vero che se uno ieri andava a giocare una colonna di totocalcio, cioè una colonna, un sistema di totocalcio le 100.000 di allora o un milione di allora, si rovinava uguale. Certo, questo è vero, però io sono convinto che molta gente gioca perché c'è molta povertà. Sì, e molta gente che è ai limiti della sopravvivenza tenta il tutto per tutto col gioco. Tenta e molta gente si rovina, cioè già è rovinata e si rovina ulteriormente. E si rovina ulteriormente, certo, ma infatti io spero che sia stata capita, ma dai messaggi lo vedo, perché ne è arrivato uno solo che dubitava del senso di questo programma, non è assolutamente un promo, e credo che questo sia molto chiaro, anzi semmai è una, un'inchiesta critica, quella che ha fatto Il Sole, e ho cercato di dare un eco in questa stessa direzione. Quindi Mauro, il suo che ci sta dentro è a sua volta quasi un appello sociale, insomma. Sì. Se non capisco male, no? Sì, è proprio così. Cioè, è proprio un appello sociale. Cioè, tra le tante scorciatoie che ogni tanto sbagliandosi si cercano nella vita, questa è una di quelle, a cui guardarsi perlomeno. Sì, secondo me sì, questo è l'appello che faccio a tutti. Il gioco deve essere gioco, cioè devono essere piccole somme, deve essere un divertimento, non certo, deve essere un deve cercare, essere che, cercare di diventare miliardario, perché ci comunque capisci, non lo diventa. Uno una sera rinuncia che ne so, al biglietto del cinema perché dice c'è questa partita o c'è questa assistina o c'è questa cosa che me la sento, insomma, questo è assolutamente umano. Ma se poi finisce, come ci raccontava prima Giuliano Balestreri, a essere il 10% di quello che una famiglia spende in un anno per mangiare, beh, insomma, allora siamo evidentemente nel delirio o quasi. Mauro, grazie della sua testimonianza. C'è spazio ancora per un ultimo ascoltatore di oggi, direi, anche se avevamo tante voci da ascoltare. Uno era Pepe, che potrebbe essere l'uomo nuovo della nazionale, ma vabbè, gli auguriamo di diventare davvero l'uomo nuovo sabato a Sofia e poi gli dare tutto lo spazio necessario la prossima settimana, oltretutto che diventa la settimana azzurra tra sabato e mercoledì, e cioè tra Bulgaria e Montenegro. Nicola, dicevo, da Bologna, buongiorno. Buongiorno, il mio intervento esula un po' dall'argomento, però volevo chiedere come mai non viene incentivato l'acquisto degli stadi o la costruzione degli stadi da parte delle società per liberare quindi energie da parte delle forze dell'ordine, dello Stato, e le società diventerebbero appunto a effetti responsabili anche dell'ordine pubblico. Per cui lo Stato diventerebbe proprietà privata in questo caso, e molte cose andrebbero a diminuire, in questo caso più violenza e connessioni e convivenza, insomma. Non lo so, giro la domanda a chi di dovere, a chi se ne intende, e ringrazio lei, ringrazio tutti gli intervenuti. Saluto Giancarlo Santalmassi perché in questo momento è in corso e mi affretto ad aggregarmi la festicciola di saluto a Santalmassi, che lascia oggi la direzione di Radio 24. Da stasera gli succede Giancarlo Fabi. E quindi saluto Peter Bescappè in regia, Flavio Suardi in redazione. Vi lascio al giornale radio.